Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Papa Francesco chiede alla Sacra Rota di rendere gratuite le cause di nullità matrimoniale e rivela: ho cacciato uno che vendeva sentenze. Il pontefice pensa a procedure più snelle per i tribunali ecclesiastici. Ai ai ai ai ai ai ai. Il Papa mette mano nella Sacra Rota, che poi si chiama Rota Romana, non è più Sacra Rota perché è un po' meno sacra, e dice un episodio del suo periodo di Buenos Aires. Dice: ho dovuto congedare dal tribunale una persona che diceva $10,000 e ti faccio due procedimenti, il civile e l'ecclesiastico. Beh, il Papa va a mettere le mani in un punto molto doloroso. Tutti i punti di vista, non soltanto laici ma più squisitamente mangiapreti, hanno sempre detto: eh sì, facile, tu basta che paghi, la Sacra Rota ti annulla ogni tipo di matrimonio, anche se hai vissuto, convissuto, fatto figli, generato, fornicato, comunque sia, si trova sempre un'uscita. Ora, probabilmente non è così, diciamo che la drammatizzazione, la radicalizzazione porta sempre a pensare male, però il Papa mette mano anche a un punto che devo dire è fra i più ambigui, discutibili, del fatto che comunque alcune persone, per avere una facciata di piena rispettabilità e per potersi risposare con tutto l'onore e l'onere di un rito religioso, si annullano il matrimonio precedente, qualunque cosa sia accaduta fra due coniugi. Ci saranno senz'altro una porzione ampissima di persone intimamente, profondamente convinte che il loro matrimonio abbia delle reali e concrete cause di nullità, ma vi posso dire, io conoscevo persone molto pie, molto devote, molto esternamente vicine a una visione della vita cristianamente ispirata, che dicevano che era prassi, soprattutto in certe organizzazioni laiche ma di grande ispirazione religiosa, andare da un notaio prima di sposarsi, fare un atto in cui si dice che ci si sposa ma non si è d'accordo, non c'è volontà, non c'è consenso, non si vogliono fare figli, si odia la persona, si è omosessuali, qualunque cosa, perché questo è un documento importante, che se un domani il matrimonio dovesse per qualche ragione fallire, con quel documento si è cautelati che alla Sacra Rota comunque ci scioglieranno facilmente il matrimonio. Come la pensate? Avete avuto esperienze? Qualcuno di voi ha annullato il matrimonio religioso per credere che questo fosse giusto, per credere che non ci fossero state le condizioni perché tale potesse essere considerato, o molti di voi per far contenti parenti, amici, per motivi professionali, per motivi di dignità sociale, hanno ben pagato e quindi hanno annullato il loro matrimonio e sono tornati vergini e libati di matrimonio e si sono nuovamente risposati. 800 24 00 24. Un'istituzione antica che, nonostante il passare dei secoli, è in piena attività. Il Tribunale Ecclesiastico, meglio conosciuto come Sacra Rota, l'organo della Chiesa chiamato a valutare a suon di carte bollate udienze la nullità del sacramento del matrimonio. Le cause principali riguardano l'esclusione dell'indissolubilità e l'esclusione della prole. E una causa può essere iniziata per più motivi concorrenti. Evidentemente abbiamo avuto il grosso soprattutto per i due capi di simulazione parziale. Il tribunale non annulla, dichiara la nullità di un matrimonio, e dunque il nostro è una sentenza dichiarativa. In termini economici, la parte attrice che si rivolge al tribunale deve versare €525, però se la parte non è in condizioni economiche può chiedere il gratuito o il semigratuito patrocinio. Se fino a qualche anno fa il ricorso al tribunale ecclesiastico... E quindi dov'è il problema? €500 non mi sembra, anche modesta come parcella a un avvocato, a un tribunale, qualsiasi atto amministrativo comunque ha un costo. Vediamo se ci può aiutare questa mattina Ignazio Ingrao. Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno. Giornalista vaticanista di Panorama, importante che oggi sia con noi Ignazio Ingrao, perché da domani è in libreria il suo nuovo libro, Amore, Sesso e Tempi di Papa Francesco, edizioni PM, che tu verrai naturalmente a parlarne in maniera ampia e diffusa da noi, però intanto nel tuo libro che uscirà domani già lambisci l'argomento del matrimonio? Sì, assolutamente sì, perché è stato uno dei temi anche discussi molto nel corso del sinodo sulla famiglia che si è svolto nel mese di ottobre, perché la questione è duplice: da una parte appunto capire come snellire i processi di nullità matrimoniale, renderli più semplici, meno faticosi e meno lunghi, dall'altra però è anche dell'altro tema come accogliere nella Chiesa divorziati e risposati, cioè tutti quei matrimoni che comunque sono validi e che però insomma sono finiti perché finito l'amore e poi gli ex coniugi si sono risposati, hanno avuto altre unioni, ecco, come riuscire ad accoglierli nella Chiesa e non tenerli fuori. Senti Ignazio, tuo giudizio spassionato, il Papa è andato a mettere un po' una mano in un vespaio andando a cominciare a dire voglio vedere chiaro e avere trasparenza anche su ciò che accade nelle sentenze a Sacra Rota? Ma devo dire che è una questione su cui già da qualche anno si sta, diciamo, combattendo. Anche Benedetto XVI ci teneva molto su questo punto, cioè diceva rigore, però appunto una giustizia che sia rapida e che non sia troppo onerosa appunto per le coppie. Infatti, come è stato detto anche in alcuni spezzoni che avete mandato in onda, si è stabilito anche la possibilità del gratuito patrocinio qui nella diocesi di Roma. Ci sono anche degli avvocati, diciamo, interni a cui ci si può rivolgere con dei prezzi calmierati e fissati, però è comunque una procedura lunga, complessa, gli atti sono in latino, quindi comunque gli avvocati devono tradurre poi in latino, non è una cosa che possono fare tutti, sono solo alcuni avvocati che sono riconosciuti e pertanto è piuttosto macchinoso. Ignazio, fermo un attimo, io intanto chiedo agli ascoltatori 800 24 0024, piacerebbe avere qualcuno avuto un'esperienza diretta di scioglimento di matrimonio attraverso appunto la procedura ecclesiastica e sapere quanto poi costa, perché gira questa voce che pagando tantissimo si ottiene lo scioglimento immediato. E introduco l'avvocato Gian Ettore Gassani. Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Ricordo presidente Lami, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Io mi ero rivolto, sono franco con l'amico Gassani, a un avvocato rotale, ma mi ha detto il decano degli avvocati rotali ci ha imposto di lasciare nessuna dichiarazione a organi di stampa. Ma negli avvocati, diciamo, normali come te, esiste un'entità superiore che può vietarvi di lasciare dichiarazione alla stampa? Non mi risulta, però credo anche che si tratti di regole loro interne, insomma, che io... Ma sono avvocati quasi preti, come funziona? Li vedo in questa foto sul Corriere della Sera, toghe viola, bordeaux, bellissimo. No, sono avvocati, veri avvocati a tutti gli effetti, non sono preti, sono uomini di fede, di legge, che hanno fatto una scelta, molte volte fanno sia le separazioni e i divorzi in sede civile, in altri casi si occupano di cause davanti alla rota romana, quindi insomma sono avvocati come tutti gli altri che hanno una qualifica in più che non è facile ottenere. Ma le due procedure, diciamo, l'annullamento del matrimonio religioso e l'aspetto civile patrimoniale che trattate voi, hanno mai dei punti in comune? Tu ti incroci mai con questo, col procedimento di annullamento religioso nelle vostre pratiche di avvocati matrimonialisti? Beh, cioè, come no, tante ci sono degli incroci tra le due giurisdizioni, questo è vero, soprattutto poi nella fase in cui bisogna in qualche modo delibare questi provvedimenti emessi davanti ai giudici ecclesiastici, quindi renderli efficaci nel nostro ordinamento, nel nostro paese, perché si tratta di sentenze straniere che vanno riconosciute, a volte le vengono riconosciute, a volte no, quindi c'è comunque poi alla fine un rapporto, sebbene successivo ed eventuale, con questa giurisdizione, su questo non c'è dubbio. Marino, buongiorno. Sì, buongiorno, senta. Io mi sono sposato tanti anni fa, poi mi sono separato consensuale, poi ho fatto il divorzio sempre consensuale. Nel 2009 mi sono sposato con l'attuale moglie, in comune, regolare, con tutte. Ora io mi piacerebbe risposarmi in chiesa, anche perché se vado a un matrimonio, vado a un funerale, non posso fare la comunione. Vabbè, ma scusa, una cosa solo. Lei considera che c'erano delle circostanze che invalidavano il suo matrimonio religioso? Io dicevo, siccome so che tanta gente a quei tempi pagando dei soldi o... Ah, lei vuol trovare, sapere chi pagare per formalmente annullare il matrimonio religioso e risposarsi. Se mi devo... Però non gliene importa una cippa in realtà del fatto religioso, onestamente, mi sembra aver capito, perché sennò si vorrebbe un po'... Io mi sono risposato regolare in chiesa... Ma anche con la prima moglie era sposato però... Sì, anche con la prima moglie mi sono sposato, prima... E quando si è sposato era convinto di sposarsi, sì... Ma purtroppo le separazioni è successo che abbiamo sbagliato tutti e due. Però vi siete sposati davanti a Dio, nel senso. Certo. Quindi, sì. È perché vorrei, come fa a annullare qualcosa che è scritto ormai? No, ma io senso che si può fare. Ah, un escamotage, una scusa. Beh, adesso. No, io lo faccio solamente per poter guardare. Eh sì, ma lei, scusi, per annullare quel matrimonio resta delle circostanze. Lei non doveva, che ne so, non avete consumato il matrimonio, ad esempio. No, allora è stato anche consumato, perché non dovrebbe essere annullato? No, io non dico annullare, voglio sapere se non lo voglio annullare, voglio sapere se io, dato che mi sono risposato in comune, se posso anche risposarmi in chiesa. Eh no, è stato già sposato in chiesa, come fa a sposarsi? Siamo sicuri che non si può fare, eh? Ignazio Ingrao, capisci, però l'atteggiamento del Signore mi fa pensare... No, proprio per questo, proprio infatti di questo però si stava, come accennavo prima, c'è il profilo, diciamo, dei matrimoni nulli che vengono dichiarati nulli, e il profilo invece di quelli che appunto si sono divorziati, hanno divorziato e poi si sono risposati e che vorrebbero comunque... Se l'atteggiamento è questo, vorrei cancellarlo per sposarmi in chiesa, non è quello... Vorrei aggiungere un altro elemento, che adesso giustamente si saluta con favore l'intervento del Papa su questo punto, però c'è anche chi approfitta, attenzione, delle dichiarazioni di nullità dei matrimoni per avere poi quella che appunto è stata chiamata la delibazione della sentenza dalla Corte d'Appello e quindi poi non pagare più gli alimenti alla moglie sostanzialmente. E abbiamo anche un aggravio di procedure di fronte ai tribunali ecclesiastici in primo e secondo grado di tutti questi mariti molto spesso che poi cercano questa scorciatoia. Allora, se è vero che è opportuno e necessario anche semplificare queste procedure di annullamento di fronte ai tribunali ecclesiastici, però bisogna stare attenti che non vengano utilizzati in maniera strumentale, tant'è vero che poi la Corte di Cassazione recentemente anche ha avuto una sentenza che ha detto, beh, se uno però è stato sposato per più di 3 anni ed è chiaro che insomma dal punto di vista civile il matrimonio era perfetto, non possiamo automaticamente deliberare. Ho capito perfettamente, sento un attimo Stefano. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Volevo soltanto accennare alla mia esperienza, nel senso che io da stato, avendo avuto le condizioni, diciamo così, più o meno favorevoli per poter chiedere l'annullamento del matrimonio, ho provato a rivolgermi al tribunale, che mi ha indicato appunto la lista degli avvocati, e quando mi sono incontrato effettivamente mi ha fatto molta chiarezza sulla questione dei costi. Quanto costa? Nel senso, pur avendo appunto le condizioni per poterlo fare, non era tanto quei 500 qualcosa euro che mi sono stati confermati appunto dell'apertura, diciamo così, della pratica in tribunale, quanto più il costo dell'avvocato in sé, che partiva da una base di, mi pare, 5.000 euro a persona. A quanto si arrivava? Quanto costava separarsi? Ecco, diciamo circa tra i 10 e i 12 mila euro per quanto riguarda l'avvocato, più tutto quello che poteva essere una serie di perizie psicologiche. E quanto si arrivava? A 1000 euro a perizia, quindi, ed era indefinito nel il periodo e il numero, quindi, di perizie. Corrisponde alla cifra che mi scrivono alcuni ascoltatori, dai 20 a 30 mila euro. Esattamente, nel senso che comunque per le condizioni che presta la mia situazione, non diciamo 500 euro, ci vogliono almeno 20 mila euro per poter fare tutta la parte. Melog, cronache meridiane. .800240024, cerchiamo di capire un po' meglio la questione dei matrimoni annullati dalla Rota Romana o Sacra Rota. Cristina, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io negli anni 70, a metà anni 70, dopo una separazione molto difficile, persuasa da mia madre che era cattolicissima, mi sono presentata a un responsabile della mia diocesi per sapere le procedure per fare l'annullamento del matrimonio. Questo qui, quando gli ho chiesto cosa avrei speso, mi ha ipotizzato 20 milioni di lire. Degli anni 70? Metà anni 70. Ci comperava una casa con 20 milioni. No, ascolti, io mi sono indignata e gli ho risposto che era un mercimonio e che erano ritornati all'epoca di Lutero e della vendita delle indulgenze. Io me ne sarei fatta un baffo e avrei aspettato... che poi tra l'altro era già stato approvato il divorzio nel 74. Tanto è vero che poi negli anni 80 ho fatto il divorzio, li ho mandati tutti quel paese. Benissimo, brava Cristina. Anna, brava, nel senso, mi piace la determinatezza. Anna, buongiorno. Anna. Buongiorno, sì. Anch'io volevo dire la mia esperienza. Io però ho dovuto pagare, nel senso che ero molto giovane, i miei genitori hanno cominciato a dire alcune cose, insomma. È meglio andare in chiesa. Quanto ha pagato? E praticamente ho pagato, prima di tutto mi hanno messo in contatto con un avvocato locale che però faceva da tramite tra come posso dire, con i rappresentanti, col tribunale, certo, col tribunale ecclesiastico della Sacra Rota. Ora io non so poi se c'è stato, facevano a metà per uno, però ho dovuto pagare parecchi soldi. Quanto si ricorda? Una quindicina di milioni, 17. In che anno era? E praticamente dunque vent'anni fa, perché ora ho 46 anni, quindi io ne avevo 24-25. Vent'anni fa, quindi nel 95 circa. Perfetto. E poi hanno, l'avvocato Rotale ha trovato un escamotage, nel senso non si sapeva quale Che vi siete inventati? Si è inventato il bonum fidei, si chiama, perché con l'annullamento di matrimonio, il matrimonio non c'è mai stato, ma lì c'era stato perché io ho avuto una figlia che ora c'ha. E come avete fatto a dire che non avete avuto la figlia? Cioè come avete cancellato l'atto? No, perché adesso io non sono un ecclesiastico, però loro hanno una tabella di motivazioni per annullare il matrimonio, che non è solo l'impotenza oppure non lo so. Sì, vabbè, non c'era la volontà di un matrimonio indissolubile. Bonum fidei, bonum. Lenza manco che comunque l'ha annullato. Va bene, Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Niente, volevo dire la mia esperienza. Molto. Pronto? Sì, ascolto. Ah, ecco, sì, molto semplicemente. Io ho dovuto fare due iter procedurali per l'annullamento. Ma lei perché lo fa? Perché è convinto che il suo matrimonio è nullo? Sì, ci sono degli oggettivi motivi di nullità, davvero oggettivi. Nel primo procedimento ovviamente la mia ex moglie non ha per nulla partecipato, quindi non è intervenuta neanche con le sue testimonianze, e quindi ho speso le prime 500 euro più i primi circa 2000 euro di spese all'avvocato. Totale, mi dica il totale, così arriviamo alla cifra. Allora, il totale attualmente sto sui 6000 euro, dopo 6 anni non ho ancora avuto l'annullamento e comunque bisognerà aggiungere circa i 3000 euro per la delibazione. Vabbè, non è una cifra eccessiva spalmati in tutti questi anni alla fine. E lei alla fine però otterrà il fatto che il matrimonio è come se non ci fosse stato? Sì, praticamente il matrimonio è come se non ci fosse mai stato. Tutta questa fatica di 6 anni per potersi risposare in chiesa, ma c'è già una seconda moglie? Sì, ho la mia compagna attuale che ovviamente... Che ci tiene? Ci tiene al matrimonio in chiesa, certo. E comunque c'è anche il discorso legato al fatto, anche se la Cassazione comunque ha annullato la questione dell'assegno di alimenti. Ah, così non vuol dare i soldi all'altra moglie, certo, così era utile questa cosa. Walter, buongiorno. Lo so, salve. Purtroppo la legge si è accorta di questo escamotage che era una furbata oscena. Walter, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Walter, lei ha fatto il testimone per i suoi amici che hanno chiesto l'annullamento? Sì, due volte. E che ha testimoniato? Che ha testimoniato? Ha testimoniato, come dicevo, la sua collega. La prima volta mi sembrava una sorta di faccia, perché c'erano già domande e risposte praticamente già fatte. E come dicevo, la signora, in questo caso, e parlo di un... Ma che le chiedevano? Mi dica una domanda a cui lei doveva rispondere. Mi chiedeva, sai, la cosa principale è il discorso dei figli, perché in tutti i casi... Si parlava del fatto di non voler generare dei figli da parte dei consorti. Cioè, doveva testimoniare che le avevano detto: no, io non vorrei mai un figlio. Sì, però di fatto questa cosa non era vera. Non era vera, non è che fosse vera, non è che si è avuto mai la possibilità che qualcuno avesse detto: non voglio figli. Cioè, quindi era una testimonianza finta, falsa. Diciamo. Accomodante, non questo termine. Però nel primo caso sì, nel secondo invece. È stata tutta diversa e nel primo è stato annullato il matrimonio, nel secondo caso no, quindi volevo dire... Nel secondo caso gli è andata male. Gianetto Rigassani, hai sentito, ti ho dato un'occasione di ascoltare cose che tu già conosci. Diciamo che la percezione generale porterebbe a pensare, ma scusate, separate definitivamente queste due cose, chi si sposa civilmente, si sposa in chiesa, è tutt'altra cosa. Che ancora esista questa idea concordataria che i due domini si tocchino mi sembra arretrato e anche abbastanza infame. Ma in effetti chi si sposa al comune evidentemente il problema non se lo pone, soprattutto quando è il primo matrimonio. Esiste ancora una comunità cattolica che invece ritiene giustamente il matrimonio sia indissolubile, l'unico modo sia ovviamente l'intervento dei giudici ecclesiastici. Insomma, per me è difficile e anche imbarazzante dare le valutazioni però... su un mondo che non conosco e che rispetto. Certo è che se il sommo pontefice interviene ed è lui il capo su una questione di questo tipo, evidentemente ha tutti gli elementi per parlare. Insomma, del resto già Papa Ratzinger ha verificato nel 2008, ricordo, il perché di un aumento esponenziale di procedure davanti alla rota romana negli ultimi anni. Tu hai sentito quel signore che dice che mi avevano detto questo ricorso a questo tipo di processi per poi avere la deliberazione e non pagare e non pagare gli alimenti alla moglie. Era una furbata abbastanza oscena, secondo me. Donatella, buongiorno. Buongiorno. Io volevo spezzare una lancia a favore dei tribunali religiosi. Oh, per fortuna. Io ho avuto l'annullamento religioso 7 anni fa. Qual era la ragione per cui l'ha annullato? Beh, c'erano una serie di motivi personali di grossi che c'erano, non erano da ricostruire, non erano da inventare, c'erano, ho fatto richiesta di annullamento, l'annullamento è stato concesso dopo una serie di aveva figli? Aveva figli? No, non avevo figlio. Non avevo figli, io ho pagato alla fine del processo di annullamento, quando sono andata a ritirare la sentenza al tribunale di Modena, sì, che è quello che fa sede per la provincia di Piacenza, ho pagato 440 euro di bolli di segreteria e mi è stato consegnato un bollettino postale in bianco con il quale, se avessi voluto, avrei potuto fare un'offerta. Io in quel momento non potevo. E non ha fatto nessuna offerta. Le è andata bene. Lei ha spezzato la lancia e siamo tutti contenti. A domani.